Lon Lon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Debs e Frey. Ben ritrovate e ben ritrovati su Vallun, la vostra mezz'ora di storia sui 103.1 di Radio Città Fujiko. In onda tutte le domeniche alle 11 oppure in podcast dal lunedì successivo sul nostro meraviglioso sito Radio Vallun con 2o.info e sul nostro canale Telegram Radio Vallun che potete trovare tranquillamente. Allora, oggi è una puntata un po' particolare perché abbiamo deciso di parlare di memoria e in particolare della giornata della memoria del 2024, quindi una cosa successa un po' di tempo fa. Iniziamo quindi questa puntata nominando che oggi si contano 30.000 morti in Palestina per mano israeliana. Ogni discorso che include Israele, la Palestina e la memoria non può prescindere da nominare il momento in cui siamo. Un momento globale, non solo perché i social ci raccontano la strage in diretta, ma per la gravità degli atti commessi che smuovono in maniera particolare le coscienze di chi oggi ha intorno ai 30 anni. Globale anche perché in ogni parte del mondo vediamo prese di parola per chiedere il cessate il fuoco, non solo dalla diaspora palestinese o dalle comunità arabo-musulmane, ma da tantissime persone diverse, comprese le comunità ebraiche. Anche nella stessa Israele, le persone che protestano contro il governo e contro gli attacchi in Palestina sono perseguitati e arrestati. Così, come dicevo prima, anche tutte le mobilitazioni sparse per il mondo sono spesso soggette alla repressione, anche in Italia. In questa situazione di agitazione e di dolore è difficile parlare di memoria. E lo è stato infatti soprattutto il 27 gennaio del 2024, la giornata per le vittime dell'Olocausto, tutte le vittime, ma in particolare per quelle ebree. Cosa fare in un contesto del genere? Qual è il ruolo di chi si occupa di storia in un momento così particolare? Qual è il ruolo di chi non si accontenta degli slogan, di chi vuole fare in modo che la solidarietà attiva diventi un seme nelle generazioni future? È sicuramente molto difficile parlarne e infatti abbiamo lasciato passare del tempo, è passato più di un mese, perché avevamo bisogno di ragionare sugli usi e abusi della memoria a mente fredda. Avremmo preferito farlo a strage finita, ma così non è. La puntata di oggi, come diceva Debs, è molto, molto particolare, una puntata anche molto difficile da fare, sia perché, come diceva Debs in apertura, c'è un clima attorno che la rende molto pesante, la guerra in corso, la strage continua, la rende veramente molto faticoso, sia perché purtroppo parlare di memoria e in particolare parlare della memoria della Shoah è diventato, ai noi, molto complesso, molto difficile. È una questione che purtroppo è stata profondamente politicizzata, ma non in un senso antifascista, diciamo, di costruzione di una identità plurale che veramente ragioni sul mai più, abbracciando però la fine dei conflitti, la costruzione di un percorso di pace, ma è diventata molto politica perché è stata dominata da alcuni paradigmi che il 27 gennaio sono emersi con brutalità anche. Quello che è successo nell'arco di questo 27 gennaio 2024 non, come storiche e come storici non ci è piaciuto, evidentemente. La difficoltà nel gestire il giorno della memoria, che, come diceva Debs, è dedicato a tutte le vittime del nazifascismo, ma in particolare alle vittime di religione e cultura ebraica, accozzato, è venuto ad essere una delle pietre dello scandalo nella costruzione di un percorso di mobilitazione anche di solidarietà nei confronti della Palestina, da un lato. Dall'altro lato è stato monopolizzato dalle istituzioni che hanno imposto una voce unica. Per tal motivo noi siamo andati a ricercare all'interno della stampa della stampa e del web quelle che ci sono sembrate delle voci interessanti, che hanno posto dei problemi interessanti. Non a caso gli articoli che vi andremo a proporre in questa puntata, un po' vecchio stile, era da un po' che non facevamo delle puntate di questo tipo, ma ne abbiamo sentito l'esigenza, le voci più interessanti sono quelle di storiche e storici, che hanno cercato di contestualizzare quello che sta avvenendo, naturalmente alla luce del presente, perché è impossibile, ed è anche uno dei compiti dello storico e della storica, quello di ragionare tenendo sott'occhio anche l'esigenza politica che a vario modo smuove le necessità della ricerca, smuove il dibattito pubblico, però per cercare di riportarlo in una ottica di comprensione. Questo anche per cercare di non reiterare dei cattivi usi della memoria, che sono quelli che hanno portato, e qui iniziamo ad entrare un po' nel dibattito, ad esempio un paese come la Germania, che ha ragionato molto sulla memoria nell'arco della sua storia, a bloccare in maniera autoritaria e fortemente repressiva tutte le iniziative culturali che parlassero di Palestina, o in cui venissero coinvolti autori, autrici, artisti, musicisti che prendevano parola pubblicamente nei confronti della Palestina. Col risultato paradossale che molto spesso queste voci dissonanti rispetto all'opinione pubblica tedesca erano alle volte anche di persone ebree, di persone non bianche, che venivano represse da dei tedeschi bianchi che in nome dell'antisemitismo ponevano dei punti di censura. Anche in Italia abbiamo assistito a delle situazioni un po' paradossali. Come sapete, in Italia dal 7 ottobre stanno andando avanti tantissime mobilitazioni e cortei in solidarietà alla Palestina, mobilitazioni che non si sono fermate a ridosso del 27 gennaio, tant'è che si è creato un clima di tensione, non tanto nelle piazze, perché comunque sono cortei rumorosi, pieni di persone, ma insomma la violenza nelle piazze, se qualcuno l'ha fatta, non sono stati sicuramente i manifestanti, ma diciamo tensione da un punto di vista più del dibattito, perché appunto a ridosso della giornata della memoria avere così tanti cortei che accusavano lo Stato di Israele di essere assassino e criminale diventa un po' faticoso per le istituzioni che dietro quella giornata della memoria si sono barricate e hanno costruito la loro identità, soprattutto se dietro quell'identità c'è magari un'identità un po' filofascista. In questo periodo storico in cui abbiamo la Meloni al governo che vuole parlare di giornata della memoria insieme a tutte le altre istituzioni, le piazze sono piene di persone che accusano Israele di crimini terrificanti, le varie questure, dopo una circolare inviata ai questori dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, varie questure decidono di indire un divieto per le manifestazioni pro-Palestina. Questa cosa ha suscitato molto dibattito, ma come ragionavamo prima con Frey, un dibattito che poi in realtà si è risolto in poco, perché alcune manifestazioni si sono tenute comunque, ma poi come tutti i dibattiti forse un po' interessanti in Italia si spengono a favore dei social, a favore degli slogan e del tifo. Cosa è successo quindi? Si è mischiata la questione di solidarietà alla Palestina col fatto che si accusava Israele, ma il giorno della memoria gli ebrei e le ebree hanno molto protagonismo e quindi la contraddizione della giornata della memoria in Italia è venuta fuori in maniera molto potente, anche da noi, con tutte le contraddizioni che riguarda per esempio l'uso e l'abuso da parte delle destre della giornata della memoria. Ma di questo argomento ne parleremo dopo la musica. Riprendo esattamente da dove si era fermata Debs prima della musica, dall'uso che ne è stato fatto in Italia della giornata della memoria e dallo scontro che c'è stato, entrando un po' nel merito di quello che poi è uscito sulla stampa italiana. Innanzitutto la presa di parola di donne e uomini ebrei italiani, questo è stato uno dei punti interessanti, perché a seguito della giornata della memoria e di questo tipo di polemiche hanno preso parola proprio donne e uomini di religione, di cultura e tradizione ebraica italiani, che hanno lamentato una grossa difficoltà di fronte all'uso del giorno della memoria come clava da utilizzare nei confronti delle proteste per la Palestina, e lo dicevano loro proprio dalla forza, diciamo, della loro storia, ma anche del fatto di avere delle persone care, amiche, che erano in Israele, che avevano vissuto gli attacchi. Però questo è dato proprio lo spinta, è un appello che vi linkeremo sul nostro sito www.radiovallun.info per entrare in questo discorso, per chiedere ancora di più il cessate fuoco, la pace, e di parlarne. Un altro punto che diceva Debs era quello proprio dell'uso che ne ha fatto la destra. Non è una novità. In Europa governi di orientamento ultraconservatore, vale la pena citare la Polonia come caso esemplare, hanno utilizzato la memoria come schermo, come una maniera per ricostruirsi un'identità. Ed è uno dei punti, questo, ne vengo a citare uno dei primi articoli, che sono stati affrontati nella tavola rotonda coordinata da Bruno Montesano sul alias del manifesto proprio del 27 gennaio. Una tavola rotonda di un certo livello, perché partecipavano lo storico Marcello Flores, Lia Tagliacozzo, giornalista del manifesto e che lavora anche alla RAI, la scrittrice Elena Janzek, che è la nota per l'appunto per La ragazza con la Leica del 2018, in cui si è fatto proprio i conti sull'uso che la destra ha fatto di queste cose. È interessante quello che diceva Elena Janzek: il riconoscimento da parte della destra, post-fascista o fascista che sia, che la Shoah sia una cosa assolutamente da ricusare, viene usato per non allontanarsi criticamente da tutti gli altri aspetti del fascismo. Funzionalmente, la Shoah, come sosteneva Lia Tagliacozzo, aiuta a dire che il 25 aprile è divisivo, che non serve più guardare alla storia del fascismo. E dato che la Shoah e la deportazione, in particolar modo quella del 16 ottobre al ghetto di Roma, avvennero sotto occupazione nazista, si lega la Shoah alla memoria del paese occupato e non alle italiane leggi razziali del 38. Permette di dire che non era colpa degli italiani, se non in modo indiretto. E questo è una riflessione che utilizziamo per l'Italia, ma che possiamo utilizzare in tutta Europa. A proposito del 16 ottobre, mi viene in mente che l'Italia avrebbe potuto scegliere il 16 ottobre come propria giornata della memoria, ma visto che le implicazioni degli italiani nel rastrellamento del ghetto ebraico romano erano troppe, era un po' troppo scomoda come data, ci siamo ritrovati col 27 gennaio, senza nulla togliere il 27 gennaio, ma è una data più generalista, più internazionale e che fa meno i conti con la storia del proprio paese. E da questo punto di vista, naturalmente, vi raccomandiamo la puntata che abbiamo dedicato proprio al racconto del 16 ottobre e della sua memoria, in cui abbiamo dialogato con Davide Conti, lo storico che ha da poco pubblicato un interessante saggio sull'uso politico della storia. A proposito di Bruno Montesano, che è citato, vorrei citare anche il suo articolo che abbiamo letto, pubblicato su Valigia Blu, La responsabilità della memoria. Qui Bruno Montesano cerca un po' di raccontarci la differenza su cosa significa appunto mobilitarsi come ebrei e cosa significa invece accusare lo Stato di Israele, perché cerca di raccontarci un po' come queste soggettività possono essere differenti. Non per forza accusare Israele significa condannare la propria comunità d'appartenenza. Infatti lui a un certo punto dice proprio, e cito testualmente: gli ebrei contro l'occupazione nella diaspora e in Israele non sono dissenzienti verso un'identità, un'essenza intrinsecamente maligna, ma verso una specifica conformazione istituzionale e politica storica adatta. Non si oppongono a degli ebrei carnefici in fedeltà alla vecchia identità di vittime. Scelgono politicamente che fare. Questo è ciò che conta, non le metafisiche delle identità collettive. Nell'articolo di Montesano comunque si parla anche della giornata della memoria in sé. C'è una frase che mi ha colpito molto, che dice: la Shoah è un problema europeo, ricordarla non è un tributo agli ebrei. Quindi una volontà di apertura, di non avere un atteggiamento identitario, ma di appunto abbracciare la complessità. Complessità che, dobbiamo dire, se siamo qui a leggervi degli articoli belli tosti, è perché è una complessità che non abbiamo visto nel dibattito italiano. Oltre alla solidarietà ci deve essere la complessità, e le intelligenze collettive servono anche a distruggere identitarismi e le ipocrisie delle destre. Per far capire quanto è complesso e difficile il dibattito sulla giornata della memoria e come le parole e l'uso strumentale di concetti che appartengono al nostro Novecento sono fondamentali in questo scenario, vi leggiamo un pezzo di un articolo che ci è piaciuto tantissimo, e ovviamente non solo a noi, che si chiama All'ombra dell'Olocausto di Masha Gessen: come la politica della memoria in Europa oscura quello che vediamo oggi in Israele e a Gaza. Ovviamente un articolo che ci è piaciuto molto, proprio perché tutte le cose che riguardano la complessità di questo momento sono scritte magistralmente, in maniera davvero bellissima, in questo articolo. Ma tornando alle parole e ai concetti e all'uso strumentale, Mentre l'Ucraina ha cercato senza successo di convincere Israele a riconoscere che l'invasione russa somiglia all'aggressione genocida della Germania, Mosca ha costruito un universo propagandistico in cui il governo di Zelensky, l'esercito ucraino e il popolo ucraino sono rappresentati come nazisti. La Seconda Guerra Mondiale è l'evento centrale del mito storico della Russia. L'Unione Sovietica e la Russia combattono conflitti quasi ininterrottamente dal 1945, ma la parola guerra è ancora sinonimo di Seconda Guerra Mondiale e la parola nemico è usata in modo intercambiabile per fascista e nazista. Questo ha reso molto più facile per Putin, nel dichiarare una nuova guerra, bollare gli ucraini come nazisti. Netanyahu ha paragonato la strage di Hamas a rave a un olocausto con i proiettili. Questo paragone, ripreso dai leader mondiali, anche dal presidente statunitense Joe Biden, serve a giustificare il diritto di Israele a infliggere punizioni collettive agli abitanti della striscia di Gaza. Allo stesso modo, quando Putin definisce il governo ucraino nazista o fascista, intende dire che è così pericoloso che la Russia è giustificata a bombardare a tappeto e assediare le città ucraine e a uccidere i civili. Tra i due casi ovviamente ci sono differenze significative. Le affermazioni russe secondo cui l'Ucraina avrebbe attaccato per prima e il governo ucraino sarebbe fascista sono false, mentre Hamas è una potenza tirannica che ha attaccato Israele e ha commesso atrocità che non possiamo ancora capire completamente. Ma queste differenze hanno importanza quando si uccidono dei bambini? Tornando sempre sulla complessità, sulla necessità di una complessità e sulla necessità di dosare le parole, vi proponiamo anche un brevissimo estratto da un articolo che ci ha colpito molto. Non l'abbiamo condiviso tutto, però ci ha colpito, l'abbiamo trovato molto interessante. È un articolo di Daniele Susini, uno storico che è stato ospite con noi un paio di anni fa quando abbiamo raccontato l'insurrezione del ghetto di Varsavia, perché ha scritto un libro molto bello per la Donzelli che è Storia della resistenza ebraica in Europa. Susini interviene sul Domani di martedì 13 febbraio 2024 per parlare della categoria del genocidio, ecco, con un articolo che si intitola L'ossessione dell'Occidente, ma non tutto è genocidio, all'indomani delle dichiarazioni di Gali a Sanremo. Quello che dice Susini è centrale, è la categoria del genocidio anche per l'uso e la politica della memoria che sono state fatte in Europa dopo il 1945 e soprattutto nell'arco degli ultimi anni è diventata una parola abusata, usata troppo, che purtroppo a suo giudizio nasconde quelli che possono essere, anche nel caso della cronaca contemporanea, i veri crimini di Israele, crimini contro la pace, crimini contro l'umanità, crimini di guerra. Secondo lui usare la parola genocidio rischia di essere un ulteriore errore, e dice: quello che credo, visto che ormai tutto è paragonato alla Shoah, anche con paralleli irriguardosi, l'olocausto animale oppure quello dei tassisti con Uber, è la diffusa convinzione che solo il genocidio sia un crimine da perseguire, da far risaltare, mentre tutti gli altri crimini di guerra o contro la pace sarebbero inferiori, non degni della medesima attenzione. Questa morbosità diventa ancora più grande se di mezzo ci sono gli ebrei, ovvero se il popolo vittima diventa il popolo carnefice, l'apoteosi del complottismo e dell'antisemitismo in generale. Dice, prosegue poi, se vogliamo fare un'opera veramente rivoluzionaria e forse concreta nell'ottica della comprensione, togliamo di mezzo il genocidio da quello che sta accadendo. Giudichiamo i fatti senza parallelismi azzardati. Naturalmente questo è una prospettiva su cui riflettere, una prospettiva interessante, soprattutto perché, come dicono nell'appello Mai Indifferenti, le ebree e gli ebrei italiani, purtroppo parlare o non parlare di genocidio magari può anche essere giusto, aggiungiamo noi, però non ferma la strage. Arriviamo alle conclusioni di questa puntata, una puntata che ci ha fatto riflettere molto prima di di metterci ai microfoni, perché sappiamo quanto è difficile in ogni contesto, in questo periodo storico, parlare appunto di memoria, quando la giornata della memoria è così fortemente collegata agli ebrei in questo momento che si sta compiendo una strage efferata a Gaza. Ma appunto il nostro posizionamento come storiche e storici ci impone di andare a fondo, di abbracciare la complessità, di non guardare mai i protagonisti della storia del presente con uno sguardo identitario, perché come ci hanno anche ricordato tutti gli articoli che abbiamo letto, non esiste l'identità, i protagonisti del Novecento, ormai non più Novecento, non sono identità monolitiche. E mi piace ricordare anche l'approccio che con Vallun abbiamo sempre avuto nei confronti dei protagonisti ebrei nella storia, ovvero che non li abbiamo mai pensati e mai interrogati solo come vittime dell'olocausto, ma anche per esempio come persone resistenti, persone che hanno combattuto il nazismo. Questa cosa l'abbiamo fatta non solo perché ci piace molto parlare di persone che sparano ai nazisti, ma anche per andare oltre quei ruoli identitari troppo solidi che a volte si mettono nella memoria collettiva o nelle narrazioni mainstream. Gli ebrei durante l'olocausto non sono stati, durante la seconda guerra mondiale, non sono state solo pecore mandate al macello delle vittime, ma sono state anche tantissime altre cose, e tra cui anche persone resistenti, così come adesso la comunità ebraica internazionale non è Israele. Israele è uno stato di destra che speriamo paghi per i crimini che sta portando avanti, ma in tutto il mondo in realtà le comunità solidali sono fatte anche da persone ebree, così come anche la Palestina non è solo Gaza e un sacco di altre cose. Insomma, le soggettività sono fluide, anche quelle legate alla propria etnia, religione e cultura. E pensiamo anche che la giornata della memoria debba servire ancora a costruire cittadinanza, a costruire coscienza critica. Quindi, prendendo un po' lo spunto dell'articolo Buone ragioni per il giorno della memoria di Enrico Manera, uscito su Doppio Zero, non ci scagliamo contro la giornata della memoria, la portiamo ai nostri occhi, la poniamo a critica, vogliamo svelare le complicità della destra nell'uso strumentale della giornata della memoria, ma finché ce l'abbiamo usiamola bene, usiamola per costruire cittadinanza, per costruire conoscenza storica, per distruggere le identità monolitiche e appoggiare invece la complessità delle soggettività. Proprio perché parliamo di memoria e l'articolo di Enrico Manera ha messo le mani in quello che è il giorno della memoria a scuola, chiudiamo dandovi un appuntamento che pensiamo possa riprendere un po' dei fili che abbiamo raccontato in questa puntata. Il 12 aprile il Centro Studi per la Scuola Pubblica di Bologna, ente di formazione accreditato presso il Ministero che fa riferimento al sindacato dei COBAS, organizza una giornata di formazione principalmente per insegnanti, ma ovviamente non solo, dedicata a uso politico e uso pubblico della storia, cantieri della memoria europea, in cui veramente avremo lo spazio per sviluppare tutto questo. L'appuntamento è alle ore 8:30 all'Istituto Belluzzi Fioravanti. Grazie dell'ascolto e ci sentiamo la prossima domenica. Ciao a tutte e tutti.